Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera torniamo a parlare di Andrea Rossi e della sua misteriosa invenzione, l'ICAT, un apparato, una sorta di caldaia che funzionerebbe sulla base di una reazione di fusione fredda. Torniamo a parlare dell'ICAT perché lo scorso 8 ottobre è stato reso pubblico il report dell'ultimo esperimento condotto su questo apparato da parte di un team di esperti provenienti dall'Università di Bologna e di Uppsala in Svezia. Naturalmente, data la pessima fama di cui gode questa branca della ricerca, caduta in disgrazia subito dopo la sua comparsa nel 1989, sin dall'inizio c'è molto scetticismo sulla possibilità che questo apparato funzioni veramente e naturalmente non mancano le accuse di truffa. In effetti, la maggioranza dei fisici nucleari ritiene che la fusione fredda, oggi si parla di LENR, reazioni nucleari a bassa energia, sia semplicemente impossibile. Primo, perché lontana anni luce dalle temperature di milioni di gradi che innescano la fusione nucleare nel Sole e nelle altre stelle. Secondo, perché apparentemente la fusione fredda non emette radiazioni ma solo calore, ciò che cozza con quasi tutto quello che sappiamo sulle reazioni di fusione nucleare. Tuttavia, una minoranza di fisici ritiene che queste argomentazioni non siano sufficienti a chiudere definitivamente il discorso. E al di là di questo, vari ricercatori negli anni hanno dichiarato di aver ottenuto evidenza che in realtà il fenomeno esiste. Ma torniamo all'ultimo test sull'ICAT. Il report porta la firma di esponenti dell'Università di Bologna e di Uppsala e anche del Royal Institute of Technology svedese, e sono gli stessi che avevano condotto il precedente esperimento a Ferrara circa un anno prima. In passato, infatti, l'apparato, l'ICAT, era già stato sottoposto a test per misurare il calore prodotto. L'idea è che se un oggetto di una certa dimensione produce abbastanza calore, nulla che avvenga al suo interno se non delle reazioni di tipo nucleare possono giustificare questa produzione di energia. A questo tipo di valutazione, appunto, l'ICAT era già stato sottoposto, ma con un'impostazione sperimentale che non consentiva di escludere completamente raggiri o errori di misura, cosa che naturalmente aveva dato adito più che comprensibilmente ad accuse di manipolazione. Oggi si può dire che questa prima obiezione sia stata superata. Nell'ultimo esperimento, l'ICAT di Rossi, immaginate un cilindretto di 20 cm di lunghezza e 2 o 3 di diametro, ha prodotto energia ininterrottamente per 32 giorni, mantenendosi a una temperatura variabile tra i 1200 e i 1400 gradi, producendo oltre 3 volte l'energia assorbita durante il funzionamento. Ma l'aspetto più importante di questo ultimo test è che per la prima volta è stato possibile analizzare il combustibile prima e dopo la reazione. Infatti, delle reazioni nucleari lasciano delle tracce assolutamente evidenti. Ne ho parlato con Bo Oysted, professore di fisica nucleare all'Università di Uppsala, che ha partecipato appunto all'esperimento. Sentite com'è andata. Quello che abbiamo trovato è uno slittamento isotopico, cioè o sono cambiate le specie chimiche o la composizione isotopica, il numero di neutroni delle specie chimiche di partenza, cosa che ci ha sorpreso moltissimo, perché eravamo molto scettici in proposito. Ma non si può essere così scettici da non provarci nemmeno. E così abbiamo analizzato le ceneri, con varie metodologie diverse, in modo da accertarci che tutte dessero gli stessi risultati. E come le dicevo, abbiamo trovato uno shift isotopico. E questo è un fatto sensazionale, perché non ci può essere uno shift isotopico senza che siano avvenute reazioni nucleari. Abbiamo un chiaro shift che riguarda il litio e il nickel, fatto ancora una volta sorprendente, ma anche utile per cercare di capire cosa può essere successo lì dentro. Ecco, e questo dato che avete rilevato, questo shift di litio e nickel, è coerente con la quantità di energia che avete misurato all'esterno sotto forma di calore? In effetti, considerato il quantitativo di combustibile e il tipo di trasformazione che ha subito ora della fine del processo, possiamo stimare quanta energia debba essere stata liberata. Abbiamo fatto questo calcolo, che può leggere nella pubblicazione, e la risposta è sì. Il quantitativo di energia misurato è compatibile con quello prevedibile. Professore, ci sono alcuni che sollevano dubbi sull'esperimento per il fatto che è stato Andrea Rossi, per quanto in vostra presenza, a inserire il combustibile delle polveri nell'apparato e poi a rimuoverlo a fine processo. Lei pensa che Rossi possa in qualche modo aver manipolato queste polveri sotto i vostri occhi? Naturalmente siamo stati molto attenti che nulla di occulto o di nascosto accadesse, come precauzione. Ma la risposta è no. Abbiamo manipolato noi le ceneri. Rossi era presente e ci ha assistito nell'operazione. Ma siete stati voi a scegliere il campione da analizzare? Sì, certo. Abbiamo prelevato noi il campione. Ma insomma, cosa vuole che le dica? In linea di principio è possibile imbrogliare chiunque per una persona che ha davvero questo dono. Insomma, un prestigiatore o qualcosa del genere? Esatto, però direi che non abbiamo operato su questa scala. Nell'intervista a Bo Heystad, di cui potete leggere la versione integrale nella pagina di Smart City sul sito di Radio 24, lo scienziato precisa più volte che in fisica un singolo esperimento, soprattutto quando presenta risultati straordinari, non è mai sufficiente a cambiare un paradigma assodato. È quindi necessario che questo esperimento venga ripetuto e confermato da un altro team indipendente. Insomma, ancora la prova del 9 che l'ICAT funziona non c'è, ma le condizioni affinché un importante istituto di ricerca si prenda la briga una volta per tutte di confermare o smentire questi risultati, queste condizioni ora ci sono ed è anche il caso che finalmente qualcuno si faccia avanti. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a lunedì.